Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e dieci minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. E allora i temi di questa giornata economico-finanziaria, parleremo, l'avevamo promesso, devo ammettere, la settimana scorsa, poi varie vicende non l'ha reso possibile, ma dicevo, parleremo di questo benedetto o maledetto, secondo alcuni, decreto sulle energie da fonti rinnovabili e quello che si chiama il quarto conto energia, che partirà in agosto con una fase transitoria fino al 2013, perché è un tema che sta molto a cuore anche agli ascoltatori, perché sono centinaia di migliaia, se non milioni, gli italiani che sono arrivati in questi anni a investire sul fotovoltaico in primo luogo, quindi pannelli solari, poi anche l'eolico, ma noi parliamo dei piccoli soprattutto, stimolati dagli incentivi. Incentivi al solare fotovoltaico che sono costati cari, secondo la stima del ministro Romani, sono costati circa 20 miliardi di euro tra il 2000 e il 2010. E questo è l'aspetto, se vogliamo, negativo. L'aspetto positivo è che il settore in Italia, il settore delle fonti rinnovabili nuove, come si chiamano, per distinguere dall'acqua e quindi l'idroelettrico e dal geotermico, dà lavoro a 20.000 persone, ha complessivamente l'indotto, quindi tutto il settore, anche chi produce, vale 120.000 occupati, che si sono creati in un periodo di disoccupazione invece in aumento, e ha portato l'Italia al secondo, terzo, lì le classifiche ballano un po', posto in Europa per energia eolica. C'è chi dice che ormai siamo al secondo dopo la Germania, e al quinto posto mondiale come produzione di energia elettrica, e questo secondo me è un successo. Detto ciò, il governo a marzo blocca in sostanza gli incentivi al solare fotovoltaico, l'Italia con un effetto retrattivo per l'eolico, scoppia una polemica interminabile, uno scontro Romani-Prestigiacomo, che a nostro avviso è più uno scontro Tremonti-Prestigiacomo. Detto ciò, a inizio maggio, il 5 maggio, il governo ha fatto uscire il nuovo decreto in cui scompaiono i tetti da raggiungere, vengono favoriti i piccoli impianti e se installati su edifici, quindi c'è un vantaggio per il cosiddetto retail, per il privato cittadino, e un vantaggio minore invece per chi questi impianti li mette a terra, quindi di solito chi fa grandi investimenti su questi impianti. Tutto bene, cercheremo di capirlo con diversi ospiti in apertura, poi passeremo anche alla Banca Centrale Europea, ormai è quasi certa, come vi ricordavano i nostri GR, noi per scaramanzia, visto che tifiamo Draghi, non lo diamo come certezza, ma insomma l'Italia, lo ha annunciato il ministro Tremonti, ha presentato la candidatura a Mario Draghi, presidente della Banca Centrale Europea. È arrivato anche il tanto atteso, si è fatta molto attendere, Angela Merkel, e quindi il via libera della Germania. A questo punto è fatta, tutti sapevamo che la Germania, dopo il sì della Francia, il della Spagna, del Belgio, dell'Olanda, del Lussemburgo, del Portogallo, restava ancora solo il silenzio della Germania, lasciare qualche margine, ma vi abbiamo letto la settimana scorsa quanto quotavano i broker irlandesi la candidatura di Draghi rispetto a altre quotazioni, e quindi dovrebbe essere fatta, e quindi un italiano guiderà la Banca Centrale Europea, è il governatore della Banca d'Italia Mario Draghi, e su questo abbiamo già fatto parecchie analisi. Chi pensa che Mario Draghi possa fare qualche sconto all'Italia, secondo me non conosce il governatore. Quello che è chiaro invece è che sicuramente Mario Draghi conosce molto bene il nostro sistema bancario e lo conosce meglio di certi stereotipi che aleggiano all'estero. Passeremo poi alle indagini della Guardia di Finanza sul fronte Lactalì, l'ipotesi di agiotaggio nell'acquisto del 29% di Parmalat comprato da due fondi, e poi ci sposteremo nella seconda ora del programma sul rapporto OCSE sui salari. Ve lo leggerò adesso tra le notizie in breve, ma in sostanza l'Italia è sempre in basso alla classifica, è salita al 22esimo posto nella classifica OCSE sui salari, dal 23esimo, ma questo è un effetto Grecia, ossia la Grecia è scivolata al 23esimo, l'Italia in automatico è salita al 22esimo. Comunque il salario netto medio di un single senza figli a carico in Italia è stato di $25.155 nel 2010, salario netto medio. una cifra che è inferiore ai 26.000 dollari della media OCSE, ma anche e soprattutto alla media europea dei paesi a 15. Siamo a 30.000 dollari netti all'anno per un single senza figli a carico. Tra l'altro l'Italia invece ha scalato la classifica di quanto pesano le tasse sulla busta paga, sui salari, il cosiddetto cuneo fiscale. Non avremmo voluto scalare questa classifica, comunque siamo arrivati praticamente al quinto posto nei paesi OCSE, perché da noi le tasse sui salari, il cuneo fiscale pesa il 46,9%, quasi il 47%, includendo tutto, aliquote addizionali e quant'altro. Abbiamo superato l'Ungheria, siamo dietro a Belgio col 55%, Francia col 49%, Germania col 49% e Austria con il 47,9%. Di questo parliamo nella seconda ora del programma. 349-238-6666 per i vostri sms. Rapidamente la borsa. Il petrolio come va? Va in leggero calo, New York a 102 dollari al barile, e invece la borsa è leggermente in rialzo a Milano, più 0,16%, invariata a Parigi, leggermente negativa a Francoforte, meno 0,14%, e Londra invece il calo è più significativo, meno 0,70%, l'America perde mezzo punto percentuale, l'euro è a quota 1,43. Si distinguono oggi in positivo Mediobanca più 2,45%, l'Automatica più 1,60% come Terna, un punto e mezzo, guadagna Luxottica e Finmeccanica, l'1,20% Enel Green Power, l'1% rialzo di Tod, lo 0,90% quello di Fondiera Sai, lo 0,80% quello di Enel. In negativo Pirelli meno 1,5%, Saipem meno 1,3%, Azimut meno 1,1%, Popolare di Milano meno 0,70% come Unicredit e il Banco Popolare, stima Microelectronics meno 0,60%, mezzo punto percentuale di calo di UbiBanca. Come sempre le notizie internazionali, la FAO, meno male che doveva essere l'anno della, o gli anni della sobrietà come conseguenza della crisi, quindi spendere non tanto meno ma spendere meglio, sprecare di meno. Beh, non sembra che sia così. Oggi il rapporto della FAO, commissionato dalla FAO a un istituto svedese per il cibo e la biotecnologia, fotografa un costo degli sprechi che è straordinario: 1 miliardo e 300 milioni di tonnellate di cibo sprecate ogni anno. Voi direte tanto è poco, è tantissimo, perché un terzo del consumo umano all'anno, cioè un terzo di quello che viene acquistato viene poi sprecato e comunque non finisce, non ha scopi produttivi. Pensate che ogni anno i consumatori dei paesi ricchi sprecano quasi la stessa quantità di cibo, 222 milioni di tonnellate, dell'intera produzione alimentare dell'Africa subsahariana, quindi dell'Africa fuori Nord Africa, che sono 230 milioni di tonnellate. Quando si dice con quello che si butta via, no? Dicevano i genitori una volta, faresti mangiare bambini africani, è esattamente così, cioè buttiamo via 222 milioni di tonnellate di cibo, l'Africa per vivere in un anno ne consuma 230 milioni, per cui proprio pulita pulita. La cosa che lascia sorpresi e perplessi è che purtroppo i paesi in via di sviluppo, quindi Cina, India, Brasile, Sudafrica, Russia, sprecano più o meno la stessa quantità di cibo dei paesi già sviluppati, evidentemente i modelli non sono sempre virtuosi, 670 milioni quelli sviluppati, 630 milioni quelli in via di sviluppo. Torniamo all'economia internazionale, per economia in senso stretto, la Toyota diffonde i dati oggi dei primi tre mesi del 2011, l'effetto terremoto, l'effetto tsunami è pesantissimo sui conti della Toyota, meno 77% l'utile rispetto ai primi tre mesi dell'anno prima, le vendite in calo del 12%. In Cina invece continua a essere l'inflazione il vero problema, ed è a livelli sostenutissimi. Nel mese di aprile, pur essendo scesa leggermente, è rimasta al 5,3%, un livello ben più alto rispetto a quello che è l'obiettivo del governo di Pechino. Passiamo all'Europa. Europa, Draghi, Draghi, Draghi, lo ha confermato Giulio Tremonti poco fa. Ascoltiamolo. Non è oggetto di questa conversazione. Comunque mi pare di aver già firmato un documento. O no? Hai già mandato la candidatura. Già anche mandato. Io lo faccio risentire perché è tutto nella dinamica. Avete sentito che c'è qualcuno che parla con Tremonti e... infatti il direttore generale del Tesoro ha confermato che il ministro ha già firmato un documento in favore della candidatura di Draghi e lo ha confermato il direttore generale del Tesoro, appunto, Vittorio Grilli. L'ironia di Tremonti è spettacolare, no? Non è oggetto di questo incontro, ma mi sembra di aver già firmato un documento, come se uno non sapesse quando candida un italiano alla guida della Banca Centrale Europea. Invece, per quello che riguarda la Grecia, che oggi è in sciopero e anche noi ci asteniamo dai commenti, il paese è fermo, è bloccato, è chiuso. Da Berlino arriva una notizia, o meglio una non notizia, cioè nessuna decisione presa per il prossimo vertice Ecofin, che si terrà lunedì prossimo. Nel frattempo salgono anche i rendimenti dei bot italiani, i bot annuali tornano sopra il 2%, 2,106 per la precisione, però Tremonti, che avete appena ascoltato, parlava in conferenza stampa assieme agli ispettori del Fondo Monetario Internazionale che erano in missione a Roma. E il Fondo Monetario Internazionale ha detto: continua la ripresa dell'Italia, bene gli obiettivi di bilancio, la crescita però in Italia è modesta, occorre fare le riforme, e su questo tasto non sappiamo più come dirlo, e l'Italia deve razionalizzare la sua spesa pubblica. Per quello che riguarda il deficit, qui è arrivato un plauso direttamente al ministro Tremonti, l'Italia è sulla strada giusta, forti progressi nella riduzione del deficit. Non posso parlare ancora dei salari, ne parliamo alle 18.15, abbiate un po' di pazienza. Vi confermo che parleremo anche delle perquisizioni della Guardia di Finanza per quello che riguarda la scalata di Lactalis su Parmalat. E ancora nella vicenda di insider trading nell'ambito dell'inchiesta sulla scalata Parmalat sono indagati Fabio Canè di Intesa San Paolo e la moglie Patrizia Micucci della Sogen, è stata iscritta nel registro degli indagati per aggiotaggio che è anche l'ipotesi di reato nei confronti di un rappresentante di Lazar e di uno dei tre fondi esteri che hanno venduto le azioni del gruppo alimentare francese. E poi poco fa la notizia che sono indagati anche Massimo Rossi, candidato nel CDA, nel Consiglio di amministrazione di Parma, nella lista presentata dai fondi esteri, e Carlo Salvatori, presidente di Lazard Italia, sono gli advisor degli stessi fondi. Dalle inchieste della magistratura o della Guardia di Finanza su Parmalat alle quote latte, il ministro Saverio Romano oggi, a margine dell'assemblea della Confagricoltura, ha detto: stiamo riaprendo il dialogo con i COBAS del latte. Sapete la nostra posizione? Nessun dialogo con i COBAS del latte, però evidentemente è una posizione solo nostra. Sentiamo Romano. Pregiudizialmente non ho una posizione che sia a favore o contraria ai COBAS che non intendono pagare le quote latte. Con loro ho aperto un tavolo di discussione perché alcuni lamentano la inesattezza in ordine alle sanzioni che vengono loro comminate, e questa nostra attività di verifica porterà intanto costoro a sottoscrivere la rateizzazione e a rinunciare ai ricorsi che avevano promosso. E quindi questo penso sia già un buon risultato per il Ministero, per il Ministro, che in una contrapposizione sterile, dicendo dovete pagare e basta, avrebbe soltanto alimentato il contenzioso. Ci saranno anche coloro i quali hanno truffato, però io ho visto della gente in carne ed ossa, che ha delle aziende, che ha i nodi alle mani, E non mi pare che sia opportuno trattare come criminali, come delinquenti persone che lavorano. Dopodiché, se hanno sbagliato, pagano. Vabbè, vedremo, ripeto, la nostra linea che ci ha procurato anche qualche problema è che non si tratta con chi non rispetta la legge, perché è una beffa per chi la legge l'ha rispettata, per chi le quote, le multe le ha pagate, per chi ha comprato quote da altri allevatori. Insomma, ogni tanto stabilire qualche principio di legalità non sarebbe male in questo paese, no? Le rinnovabili, lo scorso 5 maggio, dopo due mesi di discussione, minacce di cause, il governo modifica quello che era il decreto dello scorso primo marzo, in cui venivano tagliati gli incentivi al solare, nel caso, agli incentivi alle energie rinnovabili, nel caso anche retroattivo dell'eolico, è il quarto conto energia. Soddisfatti sia il ministro Prestigiacomo che il ministro Romani, meno soddisfatti gli investitori esteri, che rappresentano imprese che hanno investito 1,5 miliardi di euro, hanno deciso di chiedere un risarcimento all'Italia per 500 milioni di euro, perché ha violato la Carta dell'Energia di Lisbona. Mentre alla manifestazione sul solare e sulle rinnovabili, che si è conclusa la settimana scorsa a Verona, Solar Expo, era arrivato l'annuncio che 150 aziende italiane avrebbero avviato un'azione legale collettiva contro il decreto. Vorremmo capire cosa ne pensa chi da un lato il solare lo produce, perché ci lavora, e dall'altro anche chi associa le imprese del settore. Ringrazio quindi da un lato Valerio Natalizia, che è presidente di GIFI ANIE, il gruppo imprese fotovoltaiche italiane, sono 153 aziende, praticamente oltre il 50% del mercato fotovoltaico. Hanno registrato complessivamente 3 miliardi di euro di giro d'affari. Buonasera, Presidente. Buonasera. E buonasera anche al Cavaliere Luciano Brandoni, che è un imprenditore e lavora ed è Presidente della Brandoni Solare S.P.A. a Castelfidardo, provincia di Ancona, produce moduli fotovoltaici. Buonasera anche a lei. Buonasera, buonasera a tutti i suoi ascoltatori, grazie per l'occasione. Allora, Presidente Natalizia, mi aiuti a capire, questo decreto, se ho ben compreso, rimuove ogni tetto ai famosi 8.000 megawatt alla produzione di energia da fotovoltaico, perché poi è soprattutto sui pannelli solari che si incentra la polemica, introduce un nuovo sistema di regolazione automatica degli incentivi che entrerà a regime nel 2013 e apre però una maggiore attenzione ai pannelli sui tetti, non quelli a terra, e si è detto in questo modo avvantaggiando i piccoli, cioè se sono installati sugli edifici il tetto sale da 200 kW a 1 MW, ma se sono installati a terra resta a 200 kW per i pannelli installati a terra. E poi la tariffa percepita sarà determinata al momento di entrata in esercizio dell'impianto, cioè quando viene agganciato, con la garanzia però del rispetto dell'iter di connessione da parte del gestore della rete. Cioè, se tu hai pannelli, capitato molte volte al sud, ma non solo, che ci fossero i pannelli solari nei campi non agganciati alla rete eterna, e allora che te ne fai, li guardi, ti ci specchi casomai. Allora, Presidente Natalizia, vi soddisfa la nuova rimodulazione del decreto o no? Allora, siamo moderatamente soddisfatti dal nuovo conto energia, perché innanzitutto consente al mercato di ripartire e poi perché dà obiettivi sicuramente più sfidanti nel lungo periodo. È un conto energia che porta l'obiettivo dai precedenti 8.000 megawatt, come ricordava lei nell'introduzione, porta l'obiettivo appunto a 23.000 megawatt al 2016, mentre prima l'obiettivo degli 8.000 megawatt era al 2020, quindi in termini di potenza un grosso passo in avanti, che porta l'Italia ad avere come obiettivo diciamo di raggiungimento di una potenza appunto elevata, quella di avere l'energia fotovoltaica come fonte primaria nel paese. Questo decreto porta anche, introduce anche delle limitazioni nel periodo transitorio 2011-2012 che sicuramente non ci fanno piacere, ma che sono evidentemente una scelta decisa del governo e dei ministeri di porre un freno a quello che era appunto il tetto massimo di spesa. Tetto massimo di spesa che viene appunto in questo decreto individuato in un range compreso tra i 6 e i 7 miliardi di euro all'anno. Questo dovrebbe consentire appunto, secondo le attuali stime, di arrivare fino a fine del 2016, quando poi probabilmente grazie al raggiungimento della grid parity, comunque della piena competitività del settore, questi incentivi dovrebbero non servire più o quantomeno non in questa forma, diciamo, ecco. Quindi, a me sembra di capire, però mi scusi Natalizia, che il problema vero fosse il principio di retroattività, cioè chi aveva fatto già investimenti per il fotovoltaico ma anche per l'eolico ha chiesto spesso prestiti in banca. Negli ultimi due mesi, cioè fino all'inizio maggio, si erano bloccate tutte le concessioni bancarie, perché le banche, non capendo più a quali incentivi avrebbe avuto diritto uno, iniziavano a dire: beh, aspetta, vediamo cosa fare dei soldi che ti ho prestato. Questo dovrebbe chiarire il rapporto col mondo del credito, intanto, e vorrei una risposta su questo. E poi, cos'è che non vi convince nel periodo transitorio dove è previsto il cosiddetto décalage, che è un termine un po', è un francesismo per dire la riduzione progressiva degli incentivi? Allora, guardi, sul primo punto noi abbiamo evidenziato quelle che erano le diciamo alcune criticità del nuovo decreto, nel senso che noi avevamo chiesto all'attuale governo, quindi nella negoziazione con i vari ministeri, la possibilità di avere un qualcosa di chiaro, di definito, di stabile nel lungo periodo. Chiaramente l'introduzione del decreto del 3 marzo aveva portato a tutt'altro, quindi al blocco immediato del settore, con ripercussioni anche molto forti nel settore industriale e con la necessità, lei citava le banche, ma in realtà si era bloccato tutto, non solo la costruzione degli impianti, tutti i piani di investimento e di espansione di un settore che, come ricordava lei, a oggi con l'indotto più di 120.000 occupati era entrato in crisi. Questo aveva tra l'altro anche bloccato investimenti già in parte realizzati e quindi aveva fatto poi insorgere anche il mondo delle rinnovabili e del fotovoltaico, perché si erano cambiate le regole in corso e quindi questo aveva portato a grosse proteste. Il decreto del 5 di maggio risolve purtroppo in parte, solo in parte, questi problemi, però come dicevo prima dà sicuramente una visione diversa al settore e dà una spinta per ripartire. Ecco, per a me piace, invece, mi dica prego, non ho concluso. La seconda delle sue domande, le rispondo che quello che non ci piace del regime transitorio è il fatto di avere innanzitutto un cap sui grandi impianti e quindi una limitazione nella possibilità di installare impianti su terreno. Cioè penalizza i grandi gruppi industriali, dai. Sì, anche se dà la possibilità, proprio perché c'è comunque il tetto sopra gli edifici, fino a un megawatt, di realizzare impianti anche di grossa taglia su edifici, però crea una penalizzazione sul terreno e poi crea un registro appunto per l'iscrizione per poter accedere agli incentivi per i grandi impianti, crea questo registro e quindi a nostro avviso crea comunque potenzialmente maggiore burocrazia e quindi guardi, Natalizia, di solito un capannone tende ad avere un tetto. No, abbastanza. Poi se è piatto meglio, se è coi coppi un po' peggio. Però da quello che capisco io, non per difendere il governo, ma il fatto di dare un tetto più basso o un limite più basso, se no facciamo confusione con i termini, un limite più basso a chi i pannelli li mette nei terreni rispetto a chi i pannelli li mette sui tetti, che viene avvantaggiato, perché nel primo caso hai un tetto di 200 kW. Nel caso tu i pannelli li metta sul tetto a poi arrivare fino a un megawatt, doveva in qualche modo evitare alcune distorsioni, non solo le ecomafie e terreni che si riempivano improvvisamente di pannelli solari magari non collegati alla rete, ma anche di evitare che ci fosse una specie di cannibalizzazione tra i terreni agricoli che poi venivano a quel punto non usati più per l'agricoltura, usati per i pannelli, insomma un po' di speculazione sui terreni, so ben capito io. Ma guardi, in parte questo era un problema reale, in parte era stato un po' anche creato, perché era reale in alcune zone, in alcune parti d'Italia, in altre lo era meno. Però indipendentemente da questo, il fatto di spingere, di favorire gli impianti su edifici ci trova sicuramente d'accordo, perché è un po', secondo noi, quello che è alla base della produzione di energia fotovoltaica, quindi una produzione decentralizzata e soprattutto una produzione che viene realizzata laddove c'è anche il consumo. Dove poi si consuma l'energia, diciamo. Sì, la possibilità, esatto, di creare un sistema virtuoso che produce laddove si consuma. Quindi da questo punto di vista, sì, siamo assolutamente contenti. Sulla riduzione decalage di cui parlava lei, io credo che sia nell'interesse anche dell'industria fotovoltaica cercare di creare un meccanismo tale per cui questi incentivi si riducano in tempi rapidi e si abbia la possibilità con questo di avere un'indipendenza dagli incentivi, perché noi non vogliamo gli incentivi a vita, ma vogliamo un mercato al più presto maturo che possa andare avanti senza gli incentivi. Allora, Luciano Brandoni, la sentirò dopo il meteo e la pubblicità. 349-238-6666 per i vostri sms. Vorrei capire i problemi che avete avuto in questi due mesi dove si è bloccato tutto, e invece anche una valutazione dell'imprenditore sulla decisione presa dal governo. Ha ragione chi scrive che nei 20 miliardi di costo dal 2000 al 2010 del decreto sulle rinnovabili, dentro ci sono anche le cosiddette assimilabili, che sono tutto residui del petrolio e quant'altro, il CIP 6, per cui avete ragione che si sono finanziati anche i grandi gruppi energetici con questo, non solo il privato che ha messo sul tetto il pannello. Ci sentiamo dopo il meteo. Sette 40 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Tra poco arriveremo alla borsa e soprattutto alle accuse, l'inchiesta della Guardia di Finanza sulla scalata a Parmalat, e i nomi sono pesanti. Però, Cavalier Luciano Brandoni, lei produce moduli fotovoltaici, mi può raccontare intanto cosa le è successo da marzo, quando il governo ha fatto quel decreto che lo stesso sottosegretario Saglia oggi ha definito inopportuno lasciare questo vuoto, ma soprattutto da marzo a maggio, e mi dica se adesso invece si rasserenano le cose. Dunque, da marzo è successo una cosa semplicissima: da una macchina che correva, una macchina da guerra che correva a 200 all'ora, improvvisamente si decide di bloccarla in autostrada tirando il freno a mano. Le vecchie automobili, se lei tira il freno a mano a 200 all'ora, improvvisamente o vanno fuori strada o addirittura cappottano, è quello più o meno, o comunque prendono una grossa sbandata, una grossa paura. Quello è per spiegare con una battuta quello che sta succedendo. La conseguenza... Cioè, a voi si sono bloccati gli ordini e anche le banche hanno chiesto di rientrare? No, assolutamente, noi le banche non abbiamo avuto nessun problema, anzi ci sono state vicino, non abbiamo avuto difficoltà. Parliamo comunque di un'azienda che era già strutturata e supportata da altre aziende collaterali di Corvisis da 20 anni, quindi probabilmente anche quello ha influito parecchio. Sicuramente se era una nuke o qualche problema in più ce l'avrebbe avuto. In questo caso invece la cosa più bella è che ci siamo visti dalla sera alla mattina praticamente azzerare le erogazioni da parte delle banche sui stati d'avanzamento dei pagamenti dei clienti che avevano ritirato i pannelli con pagamenti concordati. Giustamente le banche prestano soldi e per farli rientrare devono sapere quando e come gli rientra, e credo che stavolta loro abbiano poca colpa, anche se in effetti abbiamo sempre di contro. Mentre invece dal punto di vista nostro la problematica, eravamo in espansione, passavamo da una produzione di 40 megawatt a una produzione di 120 megawatt, e tra giugno e luglio era completato, sarebbe stato dovuto completare tutto l'impianto. Quando a gennaio abbiamo sentito un po' di notizie abbiamo rallentato, e a marzo abbiamo bloccato tutto quello che era l'investimento, comprese le assunzioni di personale di un centinaio e passa persone, di cui una ventina di ricercatori, per iniziare ad allinearsi su quella che vogliamo chiamare una filiale italiana. Bene, dal punto di vista aziendale è stato un grosso colpo, perché diciamo da tutte le parti ci dicevano fate innovazioni, dovete crescere, dovete diventare grandi, dovete fare filiera, dovete produrre questo. Noi l'abbiamo fatto, siamo dei bravi ragazzi, siamo onesti cittadini che lavorano e ci siamo organizzati per innovare, per fare, per mettersi in corsa, per aumentare la produttività, per diventare grandi, per associarsi, e a un certo punto ci mettono un muro davanti. Questo è la conseguenza. Ok, si fa per dire. Questo però è successo a marzo, e lì ne abbiamo parlato per intere puntate, è stata una vera e propria sollevazione popolare o industriale. Mi dica una cosa, adesso che di fatto il quarto conto energia, cioè la quarta fase degli incentivi, è stata delineata col decreto di inizio maggio, le cose vanno meglio, cioè sono tornati a arrivare gli ordini, i pannelli, avete un quadro più chiaro, le banche possono operare con i cofinanziamenti con i clienti? Sì, possiamo fare tutto questo. però non lo possiamo fare in tranquillità, perché in questo momento stanno arrivando ordini copiosi, è tutta una frenesia di notizie. Fortunatamente questo decreto ha premiato la produzione europea, quindi ci ha allineato e ha riconosciuto quella che può essere una filiera italiano-europea, poi qui si tratterà di identificare bene bene quali sono i furbi, quali sono gli italiani per davvero, perché anche questo è un altro tema da affrontare con molta decisione. Quindi tutto quello che noi vediamo adesso è una prospettiva rosea dal punto di vista del lavoro, dal punto di vista delle programmazioni. Quello che viene eseguito con un po' troppa di enfasi, di velocità, di posso dire di turbinio, perché fino ad agosto ci abbiamo uno step, poi ce l'abbiamo a dicembre, quindi vivremo con degli step mese e mese, ogni quattro mesi, ogni qualsiasi cosa. Un'industria come la nostra che produce pannelli può fare solo quello, perché le macchine nostre possono solo produrre pannelli fotovoltaici di alta qualità e in un certo modo, non possono essere convertiti in altro e dovrebbero lavorare in maniera a ritmo normale, ovvero tenere quel passo e andare avanti lavorando 24 ore su 24 senza fermarle mai, senza creare problemi. Questi stop and go potrebbero creare delle disattenzioni sulla filiera, possono creare, come è successo dalle parti nostre, una certa diffidenza sul fare ulteriori investimenti. No, ho capito benissimo, Brandoni, quello che lei dice, però mi faccia vedere anche il bicchiere mezzo pieno una volta tanto. Cioè, rispetto alle situazioni in cui ci eravamo sentiti con molti di voi a inizio marzo, in cui sembrava che i tagli agli incentivi sulle rinnovabili, anzi sembrava, era così, nell'eolico erano retroattivi e anche sul solare fotovoltaico con il tetto di 8.000 megawatt non si capiva se uno comprando un pannello avrebbe avuto o no l'incentivo, perché magari avevi già raggiunto il tetto. La situazione è migliorata. Lei dice una cosa giusta, e però qui solo il futuro, solo chi vivrà potrà dare una risposta, cioè questa vicenda ha lasciato un po' scottati gli investitori esteri, le banche estere e gli stessi clienti nostri, perché speriamo che non ci siano più mosse di, come lei le ha definite, stop and go, che blocchi tutto, poi riparti, poi blocchi tutto, poi riparti. Mi sembra di poter dire che l'accordo si sia trovato, che questo è il quarto conto energia. Noi siamo qui comunque per raccontare, denunciare, e saremo qui anche in questo caso qualora dovessero essere ulteriormente modificati i parametri, che per voi sono la cosa più importante, sia per il Presidente Natalizia che per lei, cioè sapere con quanti incentivi mi muovo, come mi muovo, che cosa posso fare. Ringrazio Luciano Brandoni, Presidente della Brandoni Solare, Valerio Natalizia, Presidente della GIFI ANIE, che sono le imprese fotovoltaiche associate all'ANIE e quindi a Confindustria. Lancio il traffico, poi la borsa e poi Parmalat e poi anche una chicca su quanti romani oggi non hanno lavorato per via del presunto terremoto. Siamo in diretta da Roma, per inciso, oggi non siamo a Milano. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, una chiosa sul tema del quarto decreto energia. Molti scrivono, ma insomma, un settore non può funzionare solo con gli incentivi. E infatti nessuno ha detto questo. Gli incentivi verranno continuamente ridotti fino al pareggio, diciamo, fino a quando il settore non sarà in grado di essere competitivo da solo. Però, a mio avviso, senza questi incentivi non saremmo diventati in così pochi anni il quinto paese al mondo come energia solare prodotta e il secondo barra terzo per energia eolica. A mio avviso è un successo, perché riguarda non solo l'economia, quindi il ministro Romani, non solo l'ambiente, quindi il ministro Prestigiacomo, ma anche l'occupazione, quindi il ministro Sacconi, e se vogliamo mettere dentro anche la ricerca e l'innovazione, quindi tutta la parte che ha a che fare con acquisizione di competenze. Volete sapere quanti romani sono stati assenti al lavoro perché si temeva oggi il terremoto? Noi siamo qua a Roma, oddio, c'è ancora tempo, però per ora niente, sono il 20% secondo ADUC, quindi Associazione dei Consumatori, non è andato a lavorare temendo il verificarsi di una fantomatica leggenda nata e volata su internet. Noi, se ce l'avessero chiesto, avevamo un rimedio per esorcizzare qualunque minaccia, qualunque terremoto, un rimedio che fino ad ora ha funzionato. Gufo con borsa, una volta gli faremo anche aprire Wall Street, gli facciamo suonare la campanella al nostro gufo. Io non posso credere che il 20% di... spero che sia un dato sbagliato quello che diffonde oggi ADUC, il 20% di persone che a Roma non si sono prestate al lavoro perché temevano l'effetto terremoto. Nessun terremoto né a Roma ma né in borsa, più 0,20% Londra, più 0,14% Parigi, Francoforte invariata ancora, Londra meno 0,70%, l'America meno 0,70%. Poi parliamo di Parmalat e infine anche delle paghe degli italiani. Leonora Micheli, Radio Corri sulle 24 ore, buonasera. Buonasera. Il comparto del lusso. Sì, oggi il comparto del lusso si è particolarmente distinto, visto che questa mattina la francese Hermès ha fatto sapere che nel primo trimestre 2011 le proprie vendite sono salite considerevolmente del 25%. Tra l'altro poi ieri anche Bulgari, l'italiana Bulgari, che ricordiamo è sotto l'OPA di LVMH, aveva reso noto, aveva annunciato i conti dei primi tre mesi, che sono notevolmente migliorati, con un rialzo del giro d'affari del 28% e il ritorno all'utile. Quindi questo ha dato la spinta innanzitutto a Luxottica, più 1,59%, a Tod's, che sul finale ha guadagnato lo 0,96%, ma si è attestata su un nuovo massimo storico a 95 euro. Domani anche Tod's renderà noti i conti dei primi tre mesi. E poi tra le piccole EF è andata bene, ha fatto più 7,9%, quest'oggi anche AEF ha pubblicato i conti del primo trimestre, che sono andati in crescita in linea quindi con il comparto della moda. Allora, per quello che riguarda invece altri titoli, segnalo, visto che parlavamo di rinnovabili, Enel Green Power, oggi i conti, ricavi utili in crescita, più 1,20%, Enel più 1%. Fondi Aria Sai. Fondiare assai, sì, diciamo che la borsa continua a tenere alta la guardia sui titoli della famiglia Ligresti. Sabato si riuniranno i consigli di amministrazione delle società, intanto si attende il giudizio della Consob relativamente al fatto che, ricordiamo, le società hanno chiesto l'esenzione all'OPA per l'aumento di capitale, che vedrà entrare nel capitale la stessa Unicredit, e quindi si attende un giornale l'altro appunto il verdetto della commissione. Sul finale comunque Fondiaria Sai ha guadagnato lo 0,91%, attestandosi a 6 euro. Allora, mentre mi arrivano messaggi al 349-238-6666 di romani che dicono: in effetti oggi in metropolitana c'era poca gente per essere una giornata lavorativa. Io spero che siano errori quelli che leggiamo in agenzia, il 20% in meno per ipotesi esoteriche, fantascientifiche di terremoti. Vedo ballare il microfono, ma non penso che sia per questo. Sto scherzando. Andiamo avanti con di Parmalat, parliamo dopo con Raffaella Calandra, perché la vicenda ormai è giudiziaria. Il mondo bancario, un po' indeciso oggi il mondo bancario. Fondiaria, sai, tu raccontavi più 0,90%, in realtà Monte dei Paschi più 0,30%, peggio hanno fatto Popolare di Milano meno 0,80% e Unicredito meno 0,80%. Ne parliamo, Leonora Micheli, dopo il GR 349-238-6666, poi Parmalat e le paghe degli italiani. Il numero che ho appena dato, non dovete giocarlo, ma è il numero per i vostri sms. minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Alcune brevi risposte, poi concludiamo l'approfondimento sui mercati. Passiamo a Parmalat e infine agli stipendi degli italiani. Allora, hanno scritto al 349-238-6666 molti abitanti di Roma, che sostengono giustamente di aver lavorato, che tutti gli uffici fossero pieni, e infatti abbiamo detto ci sembra un po' azzardata questa agenzia dell'ADUC che dice il 20% non è andato, dei romani non è andato a lavorare, e gli alberghi, gli agriturismi, nei dintorni della capitale hanno registrato un inconsueto numero di prenotazioni. Il motivo doveva essere quel supposto terremoto. Prendete queste cose con le pinze, ci abbiamo anche scherzato. Seconda notizia invece sul Salone del Libro di Torino. Vi confermo quanto già vi abbiamo annunciato ieri, ossia che anche questo programma sarà, come molti programmi di Radio 24, in diretta dal Salone del Libro di Torino. Lo stand è il 2 e Focus Economia sarà in diretta venerdì. C'è un ampio spazio per il pubblico previsto appunto negli studi, quindi venite numerosi, vi regaleremo le nostre penne, i nostri portachiavi e basta, perché non abbiamo altro. E Leonora Micheli, Radio Corri sulle 24 ore, andiamo avanti. Buonasera di nuovo. Buonasera. Ti segnalo, questa è una nota quasi al limite tra il pubblico e il privato, che gli ascoltatori hanno aperto un fans club su di te. Non so se lo sapevi, ma insomma. No, non lo sapevo assolutamente. Ecco, ma lo scrivono gli ascoltatori. Vediamo di meritarcelo, andiamo avanti con i titoli. Al di là di Parmalat, dicevo, le banche oggi un po' contrastate, prego. Sì, le banche hanno chiuso contrastate, soprattutto alcune sono scivolate sul finale, come ad esempio Unicredit, meno 0,78%, ma anche la BPM, che domani, ricordiamo, riunirà il proprio consiglio di amministrazione per varare i dettagli sull'aumento di capitale da 1,2 miliardi. Invece si sono distinte le Mediobanca, che hanno vantato un progresso del 2,58% nel giorno in cui l'istituto di Piazzetta Cuccia ha annunciato i conti dei primi 9 mesi, con un utile salito del 18%. Anzi, negli ultimi 3 mesi è addirittura raddoppiato, e quindi il mercato ha premiato le azioni, visto che i conti erano superiori anche alle attese degli analisti. Ultimo titolo, Icon, più 30,3%, è il migliore in assoluto, come capite. AF più 7,96%, secondo migliore. Ratti più 4,6%, tra i peggiori Banca Carige meno 3,43, PRL meno 3,54, Italy One Investment meno 7,70. Icon. Icon, ricordiamo che è rimasta sospesa dalle contrattazioni per disposizione della borsa, perché poi ieri è stato annunciato il piano di ristrutturazione della società, un piano di ristrutturazione abbastanza consistente, che prevede la messa in liquidazione della controllata Icon Yacht, e poi prevede inoltre che la società lancerà un aumento di capitale da 4 milioni e chiederà un prestito obbligazionario da 2 milioni. Comunque, appunto, attraverso queste operazioni dovrebbe uscire dalle difficoltà finanziarie che si erano prospettate nei mesi scorsi, dopo che l'egiziano Degla aveva manifestato l'intenzione di recedere dai contratti che aveva sottoscritto, mettendo ovviamente in grave difficoltà l'azienda. Dimmi solo una cosa su Parmalat, perché adesso ne parliamo. Il titolo è rimasto sui livelli dell'OPA, 2,60 euro, solo questo voglio sapere. Oggi ha chiuso invariato, per un po' è addirittura andato sopra i prezzi di ieri, comunque ha chiuso a 2,63 euro, livello superiore al prezzo dell'OPA. Tra l'altro quest'oggi il Messaggero ha scritto che la Consob sembra che abbia chiesto ulteriori chiarimenti sul prospetto presentato ovviamente dalla Stalis, e inoltre sostiene che, sempre da indiscrezioni, gli advisor della stessa Parmalat sarebbero propensi a ritenere non congruo il prezzo di 2,6 euro offerto dall'Actalis. Poi, sì, mi sembra che i problemi di Lactalis in questo momento però siano altri. È vero quanto abbiamo detto in questi giorni, che se a un certo punto l'offerta pubblica dei francesi dovesse essere dichiarata ostile o ritenuta ostile, tu non potresti più offrire 2,60 euro, ma dovresti offrire quello che hai offerto ai fondi, ossia 2,80 euro. Ma sulla vicenda fondi a questo punto si cambia il passo, perché oggi le perquisizioni sono arrivate alla Guardia di Finanza e sono arrivate anche gli avvisi di garanzia. Esatto, infatti oggi è stata una giornata convulsa di notizie, ci sono stati numerose notizie, appunto, proprio dal Sì, prego. Numerose notizie dal tribunale circa il fatto che sono stati indagati banker. Tra il nome che spicca di più è il numero uno di Lazar Italia, Salvatori. Sì, adesso ne parliamo, infatti. Grazie, onorevole Micheli. Allora parliamo dell'inchiesta su Parmalat. Perquisizione della Guardia di Finanza sulla scalata di Lactalis. Ricorderete, Lactalis è arrivata a avere 29% di Parmalat comprandola da due fondi, quote di due fondi, ma le perquisizioni sono niente ed erano iniziate questa mattina rispetto a quello che è successo dopo. Indagati infatti Fabio Canedi in Intesa San Paolo per insider trading, quindi avrebbe diffuso informazioni riservate, e la moglie Patrizia Micucci invece indagata per aggiotaggio, quindi l'utilizzo di informazioni per modificare anche l'andamento del titolo, e poi anche Massimo Rossi, candidato nel consiglio di amministrazione di Parmalat, e Carlo Salvatori, presidente di Lasar Italia, advisor di questi fondi, cioè chi gli faceva da consulente nell'operazione. Raffaella Calandra, buonasera. Sera. Ciao. Allora Raffaella, aiutaci a capire su cosa sta indagando la procura, perché insider trading e aggiotaggio sono reati tipicamente finanziari, ma molto difficili da dimostrare. Prego. Diciamo che si può partire da un punto, che c'è una coppia nella vita che nella battaglia finanziaria si trovava ad essere su opposti schieramenti. Ci sono notizie che circolano e c'è una partita, quella per il controllo di Parmalat, tra Lactalis e la cordata italiana, che secondo la procura sarebbe stata giocata da parte dei francesi, conoscendo in sostanza già le carte del concorrente. O almeno su questa ipotesi si sviluppa l'inchiesta del PM Eugenio Fusco, che ha iscritto infatti nel registro degli indagati per Insider Trading Fabio Canè, come ricordavi, alto funzionario di Intesa San Paolo, e per aggiotaggio la moglie Patrizia Micucci, capo dell'investment banking di Société Générale, advisor di Lactalis. In sostanza Canè avrebbe spifferato alla moglie e quindi al concorrente di Intesa le informazioni sul prezzo offerto dal suo istituto e quindi dalla cordata italiana per l'acquisto del 15% di Parmalat da parte dei fondi esteri. Così Canè, scrive il PM Eugenio Fusco, leggiamo letteralmente dal decreto di perquisizione, ha permesso al gruppo di Lactalis di offrire un prezzo di poco superiore a quello di Intesa San Paolo, sufficiente a permettere, leggiamo sempre dal decreto, ai francesi di comprare il 15,3% di Parmalat dai tre fondi. Quindi... E qui fermati, qui si delinea già la prima ipotesi di reato, ossia Canè, secondo sempre l'accusa, tutto da dimostrare, avrebbe diffuso informazioni poi girate ai francesi, cerchiamo di tradurre per tutti, su quello che era il prezzo che voleva offrire Intesa San Paolo. Questo ha permesso poi, avendo un'informazione riservata, di offrire un prezzo leggerissimamente superiore, ma praticamente come se una gara a buste chiuse tu avessi avuto modo di vedere la busta di un altro, mettiamola così. Esatto, Raffaella. Esatto, ed è questo quello che io vi ho letto proprio per questo, proprio le parole, certo, del decreto, certo. Perché tutto questo sarebbe avvenuto all'interno, diciamo così, della coppia Canè-Micucci. E soprattutto la Procura di Milano ora punta a fare luce su quello che successe la notte del 22 marzo, la notte che ha cambiato fino ad ora le sorti di questa battaglia finanziaria, la sera cioè in cui i tre fondi, con una operazione da 744 milioni di euro, decisero di cedere ai francesi la loro quota del 15,3% della Parmalat, facendo arrivare Lactalis al 29% del gruppo di Collecchio, una scelta che va nella direzione opposta a quella annunciata dagli stessi fondi 3 mesi prima, il 6 gennaio, quando comunicano al mercato un accordo di coordinamento, annunciano, sì, cioè... Sì, quindi i fondi che 3 mesi prima avevano detto tutt'altra cosa, di voler coordinare l'operazione, l'abbiamo raccontata, improvvisamente, ve lo ricorderete quella sera, vendono ai francesi. Se ho ben capito quello, i documenti del PM Fusco che tu ci stavi raccontando, Raffaella, in realtà l'ipotesi è che intanto sarebbe una specie di insider aggiotaggio coniugale, per capire. Però l'ipotesi è che avere passato queste informazioni poi ha permesso ai fondi, intanto Lactalis, di offrire quello che era leggermente superiore all'offerta di Intesa San Paolo, ma soprattutto ha fatto cambiare carte in tavola ai fondi. E questo ovviamente è un'ipotesi da tutta da dimostrare, certo. Diciamo che quello che il PM mette nero su bianco è che queste informazioni avrebbero permesso all'Actalis di offrire di più e quindi di presentare un'offerta migliore rispetto a quella della cordata italiana, ma in tutto questo, diciamo, in questo puzzle da comporre si inserisce anche il fatto che ora, indagato per aggiotaggio, c'è anche colui che tre fondi nelle loro iniziali comunicazioni avevano presentato come possibile amministratore delegato ad interim, ossia Massimo Rossi, prima cioè di cambiare un orientamento, ed è per questo che si profila il reato di aggiotaggio, cioè il fatto di aver posto in essere degli artifici per alterare il corso del titolo Parmalat, che lo ricordiamo in quel periodo aveva subito anche oscillazioni molto forti. Sarà difficile dimostrare, ma immagino che se Fusco si è mosso in questo modo qualche elemento ce l'abbia. Pazzesco, sarebbe un insider trading, sarebbe il condizionale d'obbligo all'interno di Banca Intesa a favore dei francesi per guadagnarci sul titolo, con il ruolo anche di Lazard, perché sotto inchiesta è anche Salvatori come numero uno di Lazard Italia. Grazie a Raffaella Calandra. Il traffico. di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, ultimo tema di questa puntata, il rapporto dell'OCSE su quanto guadagnano i vari paesi, quanto guadagnano i dipendenti nei vari paesi OCSE, quindi la busta paga, i salari e soprattutto quanto pesa sulla busta paga la tassazione, il cosiddetto cuneo fiscale. 349-238-6666 per i vostri sms. Questa scheda ci dice com'è posizionata l'Italia: è in fondo alla classifica quanto a salari netti e purtroppo è in alto quanto a cuneo fiscale. Gli stipendi italiani si confermano tra i più bassi dei 34 paesi OCSE e soprattutto di questi tempi consola poco aver superato la Grecia, salendo dal 23esimo al 22esimo posto della classifica. Nel rapporto i salari sono considerati a parità di potere d'acquisto, ossia tenendo conto del differente costo della vita, dei paesi membri e confrontati in dollari. Emerge così che la busta paga di un singolo italiano senza figli vale in media 25.150 dollari netti all'anno, ossia 17.500 euro circa, e 5.000 dollari in meno rispetto alla media dei paesi aderenti alla moneta unica. Un collega spagnolo, nelle stesse condizioni, guadagna più di 27.000 dollari, uno francese oltre 28.000, mentre in Germania si sale sopra i 31.000 dollari. In Inghilterra, poi, si arriva a sfiorare i 40.000 dollari netti all'anno. I dipendenti italiani risultano penalizzati per due ragioni: l'alto cuneo fiscale e la retribuzione complessiva piuttosto bassa. Il cuneo fiscale, ossia la differenza tra la retribuzione lorda e quella netta, ottenuta una volta pagate tasse e contributi, vale circa 22.200 dollari l'anno, ossia il 46,9%. In pratica, un lavoratore tipo costa all'impresa circa 47.000 dollari a fronte dei 25.000 che è in tasca. In Germania il cuneo è ancora maggiore, supera infatti il 49%, ma si applica una retribuzione lorda media di quasi 62.000 dollari. Simile la situazione in Francia, con cuneo al 49,3% e 55.000 dollari lordi l'anno in busta paga. Gli spagnoli percepiscono una retribuzione lorda inferiore, circa 45.000 dollari, ma pagano in tasse e contributi solo il 39%, mentre in Inghilterra un lavoratore single costa all'impresa 59.300 dollari, di cui solo il 32,7% viene destinato agli adempimenti fiscali e previdenziali. In sintesi, tra 23 paesi europei considerati nella classifica, l'Italia è quinta quanto a peso del cuneo fiscale e dodicesima per il valore complessivo della retribuzione. Peggio ancora, se si prende in esame il caso di un lavoratore o una lavoratrice con coniuge e due figli. In questa circostanza il cuneo scende in Italia al 37,2%, ma il nostro paese è preceduto solo dalla Francia con il 42% e dal Belgio al 39,6%. Senza aggiungere poi che però la Francia ha delle politiche per la famiglia, visto che si parlava delle retribuzioni per chi ha i figli a carico, che non ci scordiamo, agevolazioni fiscali, bonus per pagare la tata, asili e quant'altro. Allora, professor Mario Vavassori, buonasera. Buonasera. Lei insegna gestione aziendale al Politecnico di Milano, presidente di ODM Consulting, nostra per il Policlinico, figuriamoci. Non ancora, diciamo. E ogni tre mesi su Sole 24 Ore pubblica l'analisi dei salari. Mi dica una cosa: nella classifica siamo bassi, però è più perché l'Italia, diciamo, non può permettersi, per motivi anche competitivi, i salari tedeschi, parlo di salari lordi e quindi retribuzione lorda, o è perché noi, pur cercando anche di avere dei salari, non dico quelli tedeschi, ma insomma nella media europea, abbiamo un cuneo che ci porta nel basso della classifica? Guarda, leggiamo i dati puliti, ripuliti. Un single che paga il 46,9% su 27.800 euro, che è la media nostra e la media dell'OCSE, c'è una differenza di pochissimi euro. Un single prende 1.150 euro netti. Sono poi i ragazzi dei 1.000 euro, ma anche i single.